Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati a 2024, questa è la nostra prima puntata della stagione. Abbiamo raccolto molti spunti durante questa estate, non riusciremo a raccontarli e a approfondirli tutti in questa prima puntata, ma sicuramente prenderemo nota per le prossime. Continuate a scriverci, l'avete fatto in molti questa estate, il nostro indirizzo è 2024@radio24.it. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24, in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica con una breve replica alle 13.10. Iniziamo come sempre con le nostre notizie selezionate durante la settimana, le notizie più importanti in ambito tecnologico. Digital News. Nell'ambito del più vasto fenomeno delle fake news, le notizie false che sfruttano i fattori di moltiplicazione dei social network e di tutti i tentativi anche tecnologici di arginare questo complesso fenomeno, arriva la notizia di Microsoft che ha annunciato di avere messo a punto una tecnologia in grado di accorgersi dei video deepfake, cioè video in cui molto spesso un soggetto dice cose che non ha mai detto e soprattutto in vista delle elezioni americane di novembre questo potrebbe diventare un serio problema. Non c'è solo Microsoft che ha sviluppato tecnologie del genere, questa è l'ultima notizia, ma sicuramente un contributo al tentativo di arginare questo fenomeno molto, molto grave. Sempre dagli Stati Uniti, dopo il Corriere, UPS e Wing, che è una società di Google, anche Amazon ha ottenuto una licenza dall'Agenzia Federale Americana che si occupa del traffico aereo per fare consegne attraverso droni. Il percorso sarà ancora lungo, ma è comunque un segnale in questa direzione. Ricordo che lo scorso anno anche in Italia ENAV e Poste, assieme ad altri player, hanno fatto i primi test per consegne tramite droni. Dopo alcuni mesi di ritardo, dovuto sia al coronavirus sia al meteo sfavorevole, il razzo italiano Vega, partito dal centro spaziale di Kourou nella Guyana francese, gestito da Arianespace, ha messo in orbita 53 piccoli satelliti di 21 diverse istituzioni e aziende da 13 nazioni. Prevalentemente piccoli e nanosatelliti, parliamo di satelliti che vanno da un chilo a pochi chili, c'era anche qualche satellite un po' più grosso. È un traguardo importante per l'Europa che così entra nel business dei lanci multipli dove operano già altre nazioni. Ricordo che gli indiani hanno il record con 104 satelliti messi in orbita in un solo lancio, ma anche SpaceX di Elon Musk continua a lanciare 60 satelliti alla volta per il programma Starlink, questa costellazione di satelliti che ha già 715 satelliti in orbita. Parliamo spesso di startup, ci sono alcune notizie anche questa settimana, quella che forse vale la pena di ricordare è quella relativa alla svedese Volta, che è una delle, non dico tante, delle alcune società che stanno investendo in trasporto pesante elettrico. Ha annunciato un piano per costruire un camion elettrico, si chiama Volta Zero, a partire dal 2022 in un impianto in Gran Bretagna. Un'ultima notizia che arriva dall'Italia, TIM ha collegato in fibra ottica ad agosto alcune centinaia di armadi stradali in 500 comuni che portano il totale da marzo a oltre 2500. Non è noto se la copertura di questi comuni sia al 100%, comunque sicuramente un passo in avanti. Ricordiamo che stiamo parlando di tecnologia mista fibra-rame, la fibra arriva al cabinet da cui poi le abitazioni continuano ad essere collegate con il vecchio doppino di rame. Questo sforzo che sta facendo l'azienda è partito da marzo, alcuni giustamente si chiedono perché non è stato fatto prima, visto che anche prima c'era il problema del digital divide e non solo con il Covid. Comunque, visto che questo problema si è amplificato in questi ultimi mesi, registriamo questa estensione della copertura, sicuramente positiva. Beh, a proposito di team, veniamo al nostro primo approfondimento. C'è un acceso dibattito fra gli addetti ai lavori, ma non solo, forse tra gli addetti ai lavori, anche molte persone che si occupano di tecnologia, come molti ascoltatori di 2024, avranno sicuramente letto, sentito parlare di questo progetto che è stato definito come rete unica. Allora, questa ipotesi di unire le due importanti reti italiane, quella in fibra e rame di TIM e quella di Open Fiber completamente in fibra ottica. Questo è l'auspicio del governo, che ha dato un via libera all'operazione, e dei consigli di amministrazione di TIM e CDP, cioè Cassa Depositi e Prestiti. Per ora c'è una lettera di intenti e una serie di dettagli da definire e superare di carattere finanziario, regolatorio, tecnologico. Insomma, ci sono molti dettagli da definire e scrivere. Per tutti gli aspetti più finanziari vi rimando al Sole 24 Ore, che ha ben descritto questa vicenda. A noi interessa capire se questo progetto potrà risolvere in tempi ragionevoli il problema che molti cittadini e molte aziende vivono ogni giorno: una rete internet inadeguata alle esigenze di oggi. Questo vale ancora per molte zone d'Italia. Come spesso accade, le scelte dei governi, le scelte delle grandi aziende che si occupano di reti, non solo quella di telecomunicazioni, poi ricadono sulle scelte quotidiane di noi cittadini, sulle possibilità di noi cittadini e ovviamente anche delle aziende. Molti si domandano in queste settimane se sia opportuno lasciare la situazione così come è oggi, cioè lasciando che Open Fiber, che ha una rete indipendente e neutrale in fibra ottica, prosegua la cablatura del paese, o invece è opportuno, come sostiene il governo, fare confluire questa infrastruttura dentro ad una più ampia società, dove però vanno risolti una serie di problemi che ad oggi non è dato sapere come verranno superati. Questo è il tema, il nostro primo tema. Saluto Stefano Quintarelli, che è esperto della rete internet, molti di voi lo conoscono, membro del Comitato Scientifico dei Copernicani, che è un'associazione che si occupa di futuro, di tecnologia. Benvenuto a 2024. Grazie Enrico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ti faccio subito una domanda sul senso di rete unica. Ha ancora senso parlare di un'unica rete nazionale di telecomunicazioni? Ma facciamo un paragone con la rete ferroviaria. Noi sappiamo adesso che c'è Italo che fa concorrenza a Trenitalia sui binari che sono di Trenitalia, dell'ex Ferrovia dello Stato. Se Italo avesse dovuto partire costruendosi una propria rete per poter fare concorrenza tra in Italia, non l'avrebbe mai fatto. Adesso il paragone è un po' estremo, però in realtà è più calzante di quanto appaia, perché la rete, soprattutto la rete di accesso, quella che arriva nelle decine di milioni di case, è un'infrastruttura che praticamente è difficilmente duplicabile. Le telecomunicazioni sono un business, un'attività basata sulla densità, ovvero nei centri urbani ad alta densità dove c'è tanta gente vale la pena fare gli scavi, vale la pena stendere i cavi, vale la pena mettere l'elettronica, perché c'è tanta gente che accede per unità di spazio, diciamo. La cosa cambiano quando usciamo dai centri abitati grossi e andiamo in posti meno densamente popolati. Lì il costo degli scavi incide parecchio e quindi fare una rete nuova non è conveniente. Questa è la ragione per cui abbiamo tanta concorrenza anche infrastrutturale, cioè con reti nuove all'interno delle città densamente popolate, e ne abbiamo praticamente nulla all'esterno di queste città, nel resto d'Italia. Quindi qui c'è un problema. Se consideriamo che in Italia solo il 12% della popolazione vive in centri urbani di una certa dimensione, si capisce, e anzi, se lo guardiamo dal punto di vista del PIL, il PIL è prodotto ancora in modo ancora più disperso sul territorio, si capisce come strategicamente per il paese sarebbe utile avere una rete ad alta velocità in fibra in tutta Italia, ma che questo difficilmente è compatibile con i business, con le attività economiche delle aziende. Allora qua il punto è: duplicare l'infrastruttura ovunque non riusciamo a farla. Allora forse è il caso di mettersi insieme e invece di duplicarla nei centri urbani ad alta densità o media densità, arrivare un po' più in là e andare a coprire porzioni di territorio un po' maggiori. Queste sono le due opzioni, diciamo. Quindi quando si parla di rete unica si parla del progetto di evitare duplicazioni per cercare di arrivare un po' più in là nella copertura. Oh, ricordiamo che questo è un progetto che ricreerebbe il monopolio che abbiamo conosciuto per tanti anni, e mi sembra di capire che il tema della neutralità della rete, cioè di evitare che chi vende al dettaglio e chi vende all'ingrosso non corrispondano, sia centrale. Lo è stato ribadito più volte. Così come, se vogliamo tornare all'esempio dei binari, Rete Ferroviaria è una società diversa da Trenitalia, pur sempre all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato, e questo per alcuni è un problema, ma comunque è una società dotata di personale, di tecnologie, di capitali che costruisce, fa la manutenzione dei binari, eccetera, eccetera. E comunque, come sappiamo e come forse può testimoniare anche Italo, qualche problema c'è stato in questo caso. Sì, anche per le cause che hanno fatto, quindi il problema c'è. Allora qui il tema è: nel momento in cui c'è un solo mulino che fa la farina e tanti fornai, beh, se il padrone del mulino si mette a fare il fornaio, gli altri possono pensare che gli dà la farina di qualità inferiore, che gliela dà più tardi, che gliela fa pagare di più. Insomma, che ci sia, se sei il padrone del mulino, è facile fare il pane creando uno svantaggio per gli altri fornai. E quindi questo tema si pone. Personalmente io da molti anni, direi da 15 anni ormai, quando facevo il presidente dell'associazione degli internet provider, sostenevo che nell'interesse del paese ci sarebbe di avere una rete unica, molto estesa, in fibra, separata con una separazione tra il mulino e il fornaio, e il nocciolo è tutto lì, è veramente tutto lì. E infatti poi il punto è la governance: come si fa a fare una governance in modo tale che gli altri operatori si fidino, e fidandosi, cioè gli altri fornai si fidino del mulino e quindi dicano: vabbè, entro anch'io azionista piccolo nel nuovo mulino, perché tanto mi fido, e poi continuerò a fare solo il fornaio. È tutta una questione di fiducia che si gioca sulla governance di questa nuova società. E secondo te come è possibile garantire tutto ciò? Questa è una domanda estremamente centrale, il nocciolo della questione, perché il punto è: io ho questa rete che in qualche modo sostiene il mio stato patrimoniale ed è mia perché è soggetta a coordinamento e controllo mio. Ma nel contempo si dice però la governance è tale da garantire gli altri rispetto a un mio coordinamento e controllo. Cioè è un po' una contraddizione nei termini, no? Quindi bisogna che qualche meccanismo, adesso io non so, giuridico, finanziario o quel che sia, trovi un equilibrio per cui questa cosa sia possibile. Comunque questa operazione non è così scontata ed automatica, perché è proprio su questo punto che si gioca tutto. Entrando anche poi in un secondo momento la società nuova di Telecom, facendo una fusione con Open Fiber, che è una società che ha preso dei finanziamenti pubblici, e visto che ci saranno altri nuovi finanziamenti pubblici, realisticamente, no, con il Recovery Fund e via dicendo, è difficile vedere che non ci sia una possibile competenza dell'Europa, dell'antitrust europeo, per dire se questa è un'operazione, se questa è una concentrazione fattibile o meno. Io credo, magari mi sbaglio, che questa cosa dovrà essere esaminata, questa operazione dovrà essere esaminata a Bruxelles. Il dettaglio per cui io sono proprietario ma garantisco gli altri, che è proprio questo nocciolo, dovrà essere non tanto, cioè non solo, non bisognerà solo convincere gli altri operatori, ma bisognerà anche convincere la commissione e la direzione concorrenza, che eventualmente potrà dire: autorizzo questa concentrazione a patto di con queste condizioni, e le condizioni potrebbero riguardare dismissione di pezzi di asset o altre cose che non, che adesso non riesco ad immaginare. Quindi secondo me è un percorso ancora molto lungo, dove come si dipanerà questo percorso lo vedremo nei prossimi mesi, non pochi, e quello risponderà meglio alla tua domanda: come si combina, come si riesce a tenere insieme il controllo da una parte e una governance invece plurale dall'altra. Beh, in generale tu come pensi che vada a finire? Cioè, qual è la tua sensazione? Cioè, che ci si infili in una vicenda molto, che sia complessa non c'è dubbio, ma che la vicenda sia talmente complessa che i tempi si allunghino e quindi questo di per sé possa essere un freno allo sviluppo delle reti in Italia o no? Questo è un rischio concreto, è una possibilità, adesso non vorrei chiamarlo rischio concreto, nel senso che se poi dobbiamo andare a fusione, magari Open Fiber potrebbe decidere di rallentare i propri investimenti o Telecom stessa. Quindi magari in attesa della soluzione con la S maiuscola potremmo avere un rallentamento. Io spero che questo non accada. Cioè, se dipendesse da me, se io fossi uno dei due, io non farei, non rallenterei gli investimenti, perché la direzione è tracciata, ma la strada è ancora molto lunga e può succedere veramente di tutto. E se poi per caso, per la probabilità magari anche piccola che non si arrivi in fondo, se quella probabilità si verifica, se io ho perso un anno di investimenti, un anno e mezzo di investimenti, ho perso un anno e mezzo di presidio del mercato. Quindi, credo che sarà lunga, credo che la timeline, la linea temporale proposta da Telecom Italia mi pare estremamente che prevede la firma, se non ricordo male, nel secondo trimestre dell'anno prossimo. Nel primo. Sì, sì. Mi sembrano tempi veramente molto stretti, mi sembra veramente un obiettivo molto stretched. Vedremo. Bene, Stefano, grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie Enrico, grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori. A proposito di stallo, c'è una notizia delle ultime ore riportata dal Sole 24 Ore che una delibera del CIPE ha fatto slittare di 2 anni l'impiego di 1,1 miliardi di euro già stanziati per il piano banda ultralarga. Sicuramente non è una buona notizia, uno slittamento che, scrive Carmine Fotina sul Sole 24 Ore, sembra adattarsi alla perfezione anche alla necessità di prendere tempo per aspettare la costituzione della rete unica Team Open Fiber, evitando così il rischio di lanciare bandi di gara nella seconda parte del 2020 o anche nella prima parte del 2021 senza che esista ancora il soggetto che potrebbe impiegare queste risorse. Uno potrebbe dire, beh, c'è già Open Fiber che potrebbe impiegare queste risorse, ma opportunamente, scrive Carmine Fottina, sempre ammesso che i paletti della governance siano sufficienti a superare il problema della proprietà a maggioranza privata. Detto ciò, ne riparleremo sicuramente in una delle prossime puntate, visto che questo tema andrà avanti ancora per molto tempo. Adesso per noi c'è una breve pausa, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. A tra poco. Bentornati, riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione. Il nostro programma va in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica in una replica breve alle 13.10 e poi ci trovate nella nostra versione super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale, online sul nostro sito internet, sulla nostra applicazione, sull'applicazione delle radio italiane, Radio Player Italia e ovviamente nelle principali piattaforme audio on demand, a partire da Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eccetera, eccetera. Adesso parliamo di cybersecurity, partendo da una notizia piuttosto importante e anche preoccupante di questa estate. È stata scoperta una vulnerabilità, una serie di problemi, ad un processore di Qualcomm che si trova sul 40% degli smartphone. Secondo una stima parliamo di circa 1 miliardo di telefoni, parliamo di processori che sono su telefoni Android. In modo particolare stiamo parlando del processore del DSP degli Snapdragon. Gli Snapdragon sono forse tra i più famosi come brand, come nome dei processori di Qualcomm, e a scoprire questa serie di vulnerabilità, come al solito le vulnerabilità, se sono utilizzate e se sono utilizzate da malintenzionati, possono portare anche cose molto brutte, rischiose. Dicevo, a scoprire questa serie di vulnerabilità sono stati i ricercatori di Checkpoint. Saluto David Gubiani, che è il direttore tecnico Sud Europa di Checkpoint Security. Benvenuto a 2024. Grazie. Dedichiamo qualche minuto su questa vulnerabilità o questa serie di vulnerabilità che voi avete svelato quest'estate. Di che cosa stiamo parlando? Di che cosa si tratta? Sì, stiamo parlando di una vulnerabilità che hanno scoperto i nostri ricercatori. In realtà sono un gruppo di vulnerabilità, sono più di 400 problemi all'interno di una componente dei processori Snapdragon, che si chiama appunto, come giustamente hai detto, DSP, che è il Digital Signal Processor. Cioè è una componente di questi processori che hanno più di un sistema a bordo. Ecco, la peculiarità di questa vulnerabilità è che questa componente, cioè il DSP, è controllato solamente dal produttore dell'hardware, quindi non può essere gestito anche a livello di patch e quant'altro da parte di chi poi invece fornisce il software che utilizza questi processori. È una vulnerabilità piuttosto grave perché praticamente all'interno di questo DSP lavorano tutta una serie di funzioni molto critiche nei telefonini in particolar modo, ed è vero, come dici tu, che sono installati praticamente su più di 1 miliardo di device. Perché? Perché il processore Snapdragon peraltro è uno dei più diffusi, soprattutto nei telefoni e negli smartphone moderni. Ovviamente queste vulnerabilità possono essere sfruttate da malintenzionati, o meglio ancora criminali informatici, e possono prendere il controllo di un telefonino, di un device mobile, e i nostri telefonini hanno a bordo un microfono, una fotocamera, un geolocalizzatore, tutti i nostri contatti, le nostre foto e tutti i dati personali, accessi ai vari home banking e quant'altro, quindi è in una situazione che può essere pericolosa per la persona che viene compromessa, per il telefono, per il device che viene compromesso. Chi ha uno smartphone con questo processore si deve preoccupare? Beh, allora, alla base di tutto c'è sempre la necessità di fare degli aggiornamenti costanti. Quando i nostri telefoni ci chiedono di fare l'aggiornamento sia della parte del sistema operativo sia delle varie applicazioni, va fatto, perché all'interno di questi aggiornamenti si trovano le patch, appunto, le pezze a queste vulnerabilità. Ora, questa situazione in particolare è piuttosto delicata, essendo la vulnerabilità molto grave, è stata comunicata secondo degli standard. Noi, i nostri laboratori comunicano ai vendor, in questo caso al vendor di Snapdragon, la vulnerabilità secondo delle procedure ben precise. Cioè noi troviamo la vulnerabilità, comunichiamo al vendor, il vendor ha 90 giorni di tempo per poter prendere per poter fare della ricerca appunto su queste vulnerabilità e prendere delle azioni per proteggere i propri sistemi. Ora, ci sono dei casi come questo appunto, in cui una volta superati i 90 giorni, in teoria chi ha scoperto una vulnerabilità può pubblicare tutte le informazioni legate a questa vulnerabilità, ed è una prassi piuttosto normale, ma quando, diciamo così, la sensibilità del team che rivela e rileva queste vulnerabilità, quando queste persone capiscono che la cosa è piuttosto grave, anche se il vendor che ha, in questo caso i produttori di Snapdragon, che hanno questa vulnerabilità, non riescono per questioni di difficoltà, per esempio, a patchare queste vulnerabilità, non pubblichiamo tutte le informazioni, perché potrebbero essere prese appunto dai criminali e fatte proprie, e può essere creato un attacco proprio sfruttando queste vulnerabilità. In questo caso specifico è successo proprio questo. Noi abbiamo scoperto la vulnerabilità, l'abbiamo comunicato al vendor, sono passati 90 giorni e abbiamo pubblicato una serie limitata di informazioni dicendo: guardate che ci sono queste problematiche, quindi aggiornate i vostri sistemi, non svelando quali sono i retroscena della problematica, cioè la parte di codice, i test che abbiamo fatto, perché vengono svelate da protocollo tutte queste informazioni. Cioè viene proprio data una chiara spiegazione di qual è la vulnerabilità, come l'abbiamo trovata, come lavora, come funziona e qual è il codice. Certo, questo per evitare che voi sveliate il problema e quindi anche il come sfruttare queste vulnerabilità ai criminali. Esatto, sarebbe proprio un atteggiamento sbagliato, anche perché un domani potrebbe succedere a noi, quindi non vorremmo che qualcuno svelasse prima di aver creato delle patch una vulnerabilità sui nostri sistemi comunque. Ecco, tornando però alla domanda, ci dobbiamo preoccupare o l'unica cosa di cui dobbiamo preoccuparci è fare gli aggiornamenti quando sono disponibili, sperando che gli aggiornamenti siano veloci, perché poi sappiamo che ogni produttore di telefonini, di smartphone usa una propria procedura, quindi non tutti sono veloci nel rendere disponibili gli aggiornamenti. Questo è vero. Allora, è un discorso un po' delicato, perché in realtà quando utilizziamo un mezzo collegato a una rete informatica, quindi internet, dovremmo sempre preoccuparci, cioè fa parte del buon senso, perché appunto, come abbiamo detto prima, ci sono tutte le nostre informazioni personali, il telefonino ne contiene probabilmente di più dei nostri computer di casa, quindi quando approcciamo qualunque sito web, qualunque applicazione, dovremmo sempre essere un po' attenti, quindi il suggerimento ad oggi che si può dare è aggiornate i sistemi, perché va fatto, e cercate di scaricarvi le applicazioni solamente da quei siti web, da quei portali come il Google Play Store, che sono ufficiali, dove c'è una garanzia maggiore rispetto a terze parti sulla bontà dell'applicazione che mi vado a scaricare. E ovviamente queste vulnerabilità possono essere sfruttate anche da video, da software, diciamo, che non sono legati a una particolare app, quindi è ancora più delicata la faccenda, ma anche qua vado a vedermi un video tendenzialmente in un sito che mi dia una ragionevole garanzia, posso fare un nome YouTube piuttosto che un sito qualunque che mi arriva tramite un link all'interno di un'email che poi alla fine scopro essere magari del phishing, in cui sono quasi certo di avere a che fare con un video che contiene del codice malevolo, perché poi sostanzialmente queste vulnerabilità vengono sfruttate da del codice malevolo che viene eseguito all'interno del nostro device. Quindi io da qualche parte clicco, e in questo caso mi voglio andare a vedere un video, ma invece che cliccare nel classico sito, diciamo ragionevolmente sicuro, nel quale vedo i video regolarmente, vado a cliccare un link di una pseudo pubblicità che mi arriva tramite email, e lì rischio veramente tanto. Ma questo è buon senso generale che può essere applicato in qualunque situazione. Sicuramente il livello di attenzione deve crescere e deve essere sempre molto alto, perché, ripeto, abbiamo tutti i nostri dati all'interno di questi device, che potrebbero anche non servire a nulla nell'immediato a chi effettua l'attacco, perché potrei essere vittima di un attacco generale molto più ampio. Però prima o poi qualcuno va a scavare nelle informazioni rubate e magari trova un qualche cosa che può essere utile per fare un attacco verso una terza parte. Quindi io divento parte in causa di un qualche cosa della quale non ho più il controllo. Se rubano un contatto a me, possono risalire a te, perché io nella mia rubrica ho il tuo numero, e magari chi vuole attaccare te trova in me l'anello più debole della catena. Quindi l'attenzione deve essere sempre alta, e dobbiamo sempre ricordarci che magari non ci rubano 100.000 euro o non ci rubano 1.000 euro, però ci rubano delle informazioni che in qualche modo possono essere riutilizzate, perché finiscono tutte da qualche parte nel dark web, e c'è sempre qualcuno che è alla ricerca di informazioni utili per poter fare altri attacchi. Voi avete svelato un'altra vulnerabilità quest'estate. Adesso io non so se quello che noi stiamo raccontando, cioè tutte le vulnerabilità che sono state svelate quest'estate, sono per voi esperti addetti ai lavoro o ai lavori una cosa normale, però io tutte le volte che leggo cose del genere un po' mi spavento. Poi è vero che per adesso non abbiamo visto catastrofi generali a livello globale, certo è che però il livello di attacchi e di criminalità digitale sta sempre più aumentando, forse ci stiamo sbagliando abituando, ma così è. Sì, la differenza tra una catastrofe naturale e un attacco informatico è che spesso l'attacco informatico rimane silente, perché poi dopo le conseguenze di questo attacco si vedono a medio termine e non nel breve. Ci sono regolarmente vulnerabilità che vengono scoperte, tantissime, migliaia, e quest'estate è stata una bella palestra, perché ne abbiamo scoperte qualcuna interessante. È ovvio che saltano poi all'occhio delle persone comuni, tra virgolette, quelle che ci toccano direttamente. Per esempio, abbiamo scoperto una vulnerabilità su Amazon Alexa, che può fare determinate cose, ovviamente tutto quello che dico è già stato comunicato ad Amazon nei tempi previsti, e Alexa inizia a essere comune in molte case. Quindi quando io leggo una vulnerabilità riguardante Alexa, inizio ad alzare un po' le antenne, no? A fare attenzione. Mentre ci sono altre vulnerabilità molto gravi che abbiamo scoperto, per esempio ce n'è stata una sui server DNS di Microsoft, che si chiama SIGRED, l'abbiamo chiamata SIGRED perché sfrutta un comando che si chiama SIG, signature sarebbe, che va a attaccare i DNS, i server DNS di Microsoft. Ora, i server DNS, per le persone non addette ai lavori, sono la rubrica telefonica di internet, per capirci. Cioè, io digito www.google.com, in realtà devo andare a scoprire l'indirizzo IP, che è una serie di numeri, per poter arrivare a Google e vedere la pagina di Google. Ecco, questo traduttore di indirizzi, questa rubrica telefonica, fatta in automatico per tutti quanti noi, ovviamente, si chiama DNS, Domain Name Server. È stato attaccato e hanno scoperto una vulnerabilità, peraltro molto vecchia, di Microsoft, che ha già sistemato, ovviamente, che poteva banalmente cambiare i numeri o i nomi all'interno di questa rubrica, per fare un esempio, un'analogia. Quindi io digitavo www.google.com e potevo finire sul sito che era apparentemente il sito di ricerca di Google, ma in realtà era un sito finto che conteneva... un sito malevolo, scusa, che conteneva codice malevolo che poteva in qualche modo attaccare il mio computer. Dunque, tu hai accennato ad Alexa. Voi, come altri produttori di software e tecnologie per la sicurezza, state aumentando l'attenzione a tutto quel mondo che si chiama IoT, Internet of Things, quindi Internet degli oggetti, e in modo particolare su tutto quel mondo che lentamente ma inesorabilmente, perché anche qui non abbiamo visto poi una grandissima esplosione, è quello che viene definito smart home. Che cosa sta succedendo? Sì, anche qua ci sono moltissime vulnerabilità, perché bisogna capire che questi device che noi utilizziamo in casa, la lampadina collegata a internet che io attivo e disattivo tramite un'app dedicata oppure tramite Alexa, visto che abbiamo parlato di Alexa prima, al suo interno ha innanzitutto una connessione a internet, perché si collega in qualche modo, e viene gestita da un'app che tendenzialmente è nel cloud, quindi non è gestita da noi, non è su una macchina fisica dentro di noi, per cui noi, diciamo così, installiamo queste lampadine che sono molto comode, ma così come le telecamere di sicurezza, così come il sistema d'allarme, il televisore, ma quando mai ci preoccupiamo di aggiornare queste lampadine, che nascono senza un sistema di sicurezza vero e proprio? Anzi, molte di queste lampadine si collegano anche con dei protocolli radio, non IP, quindi non il linguaggio di internet, ma dei protocolli radio che poi vengono tradotti dal cloud e da hub che si mettono in casa. E questi possono essere attaccati. Abbiamo scoperto che c'è la possibilità di vedere all'interno delle telecamere, cioè io posso spiare una casa perché ha due telecamere collegate alla stessa rete, posso compromettere la telecamera e entrare dentro, oppure posso utilizzare diciamo, il collegamento di queste lampadine per poter poi entrare nella rete di casa di una persona e poi eventualmente andare a scoprire cosa c'è di collegato, per esempio il mio computer di lavoro, che è collegato nella mia casa perché con lockdown devo lavorare da casa, e posso tentare di attaccare dall'interno il mio computer del lavoro. A quel punto dal computer del lavoro poi ovviamente finisco in azienda. Quindi c'è una serie di possibilità che hanno questi hacker dovute al fatto che questi device, quindi queste smart bulb oppure la sirena dell'allarme o il termostato, non siano sicuri e non siano nemmeno protetti o separati nella rete di casa, perché tendenzialmente una persona si preoccupa di avere il device più semplice da installare e più semplice da gestire. Però il prezzo da pagare è un abbassamento del livello di sicurezza, che può anche non comportare nulla, perché io da fuori posso spegnere e accendere le lampadine, ok, va bene. Il problema è che quando ho anche la serratura di casa, la serratura del garage, la basculante del garage collegata al sistema d'allarme, se ho un sistema compromesso, qualcuno che mi cura, che potrebbe succedere e succede in realtà, potrebbe aprirmi il garage e rubarmi la moto oppure disattivando il sistema di allarme, proprio perché non sono nate con la sicurezza come design, by design. Sì, questo è un aspetto interessante, anche preoccupante, abbastanza triste, cioè che questi grandi produttori, molti grandi produttori, non dedichino a sufficienza attenzione verso la cyber security. Personalmente tu che cosa consigli o sconsigli in termini di smart home? Perché appunto, molti collegano cose in casa, oggetti della casa, senza stare a pensare a tutto quello che potrebbe accadere. È chiaro, esatto. Io quello che consiglio è di innanzitutto di non raggruppare tutto. Cioè, siccome tutti questi device sono anche aggregabili tramite Google o tramite Amazon Alexa, tramite aggregatori veri e propri che io comando per esempio vocalmente, se dovessi per esempio collegare il sistema d'allarme o il sistema di apertura delle porte, cercherei di tenerlo separato e affidarmi a un produttore noto, possibilmente occidentale, non voglio essere discriminante, però fondamentalmente c'è più controllo, a quanto abbiamo capito, e cercare di separare queste reti il più possibile. Cioè, se io collego il mio sistema di allarme e necessariamente lo voglio in cloud perché mi è comodo avere l'applicazione che me lo collega, perché non sono in grado di mettere in piedi un sistema a casa, quindi mi compro il classico kit preconfigurato, e la prima cosa che faccio, vado a cambiare le password e non lascio quello di default, aggiorno il sistema, come lo installo e diciamo così ho un unico interlocutore con il quale interagire nel caso in cui ci fossero dei problemi o dovessi avere dei dubbi. E in aggiunta mi preoccupo anche di verificare tutte quelle email, gli allarmi o le informazioni che mi arrivano dal produttore stesso, quindi gli aggiornamenti per esempio. E metto un'altra cosa che faccio, metto i livelli di allarme, le varie soglie d'allarme, perché sono impostabili più delle volte, al minimo possibile, per cui ogni singola variazione mi va a dare un allarme, e quindi il rischio qual è? Che spendo molto tempo seguendo un po' queste cose, però almeno mi garantisce una ragionevole sicurezza, ecco, che le cose stiano funzionando come dovrebbero. E non le collego alla stessa rete o alla stessa applicazione che ha le lampadine, o non le collego ad Alexa, perché comunque dovrei avere due passaggi per poi arrivare a chi diciamo ha in mano le informazioni che possono essere compromesse. Certo, quindi lo svantaggio è avere più applicazioni per comandare pezzi della mia smart home, però tu dici, per alcune applicazioni molto critiche, che ne so, può essere l'allarme oppure il portone di casa, affidiamoci a chi fa solo gli allarmi oppure chi fa solo, che ne so, le serrature del portone di casa, e non invece ci affidiamo a grandi brand che fanno un po' tutto. Sì, più che grandi brand, molte di queste attrezzature si trovano a basso costo e si trovano su internet. E se andiamo a vedere nel dettaglio, sono tutte fabbricate in Cina da qualche parte, tendenzialmente da un paio di aziende, non molte di più. E quando le voglio collegare, le collego tramite una loro applicazione a un server che è da qualche parte nell'area in un'area remota cinese, e chi mi offre garanzie? Cioè, nessuno me le offre, quindi preferirei tenere, ecco, le cose un po' separate. Anche perché poi, come dicevamo prima, il numero di casi di furti nelle abitazioni durante quest'estate sono diminuiti, ma i furti tramite internet sono aumentati, e l'evoluzione sarà il furto in abitazione grazie a internet, sfruttando un po' il social network, sfruttando un po' queste vulnerabilità che si possono anche sfruttare in modo molto semplice, non serve essere un esperto informatico, perché ci sono dei kit che ti sistemano tutto, che ti preparano già il pacchetto pronto. Quindi faccio social engineering, scopro che vado spesso all'estero, quindi la casa mi rimane libera, so che c'è un allarme della Jingwang, per dire un nome a caso, e riesco a disattivarlo e riesco a entrare in casa senza che nessuno se ne accorga. Beh, però è uno dei tanti scenari. Però come dire, bisogna essere piuttosto abili a usare tecnologia, non è una cosa che fa il ladruncolo di provincia. Ma allora, questo è vero in parte, nel senso che è molto difficile creare l'attacco, creare la tecnologia, cioè creare il codice che ti permette di bucare una vulnerabilità e prendere il controllo di un sistema. Però poi, un attimo dopo, siccome è un enorme ciclo di vendita, tutto questo pacchetto viene, diciamo così, plasmato e rivenduto online a uso e consumo di chi paga, semplicemente, e sfrutta delle piattaforme che ti danno software as a service sul cloud, per dirle tutte, e ti danno la possibilità di fare una cosa molto, molto semplice, di farlo in maniera semplice. Quindi la difficoltà sta nel creare il software dell'attacco, ma poi per renderlo fruibile a tutti quanti è più semplice, ecco, ci si può arrivare. Guardando anche proprio alla vita di tutti i giorni, cioè se uno, sto parlando di una cosa che non necessariamente è cyber security, ma che magari sfocia nella privacy, ma se uno volesse costantemente controllare la giusta configurazione di quello che mette in cloud su Facebook, su Google, eccetera, eccetera, perde un sacco di tempo, cioè effettivamente deve andare a vedere tutti che cosa si può fare, che cosa sto facendo, se ho la geolocalizzazione attivata, se le foto che pubblico le possono vedere tutti, solo i miei amici, eccetera, eccetera. Ecco, tutte queste configurazioni portano via tempo, non so quante persone dedicano così tanto tempo alle configurazioni e quindi il risultato finale, cioè il rischio che il risultato finale sia sicurezza molto bassa. Sì, questo è vero e fa parte di quello che generalmente manca, genericamente manca, cioè le nozioni di base su quello che è la sicurezza informatica all'interno di questi portali e soprattutto anche manca la percezione del rischio da parte degli utenti. Manca completamente la percezione del rischio. E parlo dell'utente, dell'uomo comune, insomma, non sto parlando degli esperti informatici. Manca la percezione del rischio quando pubblico una qualunque foto, una qualunque informazione, quando pubblico la mia posizione perché ho fatto un viaggio in Israele e non mi rendo conto che qualcuno che mi vuole curare potrebbe anche, diciamo, capire dove sono, cosa faccio e quali sono le mie abitudini. Ti faccio un altro esempio. E tutti noi malati di sport usiamo i vari orologi, gli smartwatch collegati al portale che mi danno 1000 statistiche alla fine di una corsa o alla fine di un giro in bicicletta o di una nuotata, vengono pubblicati in automatico, abbiamo il nostro smartwatch che registra le nostre informazioni di salute, che registra la nostra localizzazione, il giro che ho fatto, l'orario in cui l'ho fatto. Per cui se una persona volesse curare un'altra persona per poter poi, per esempio, entrare in casa e rubare delle cose, basta che segue, diventa amico su uno di questi portali e vede che questa persona ogni giorno alle 8 esce per un'ora e si va a fare una corsa di 10 km. Se andando oltre voglio rubare delle informazioni, riesco in qualche modo a rubargli la password oppure a sfruttare una vulnerabilità di questi sistemi, posso anche andare a raccogliere dati sensibili come le informazioni cardiache, per esempio. Ci sono degli smartwatch che si registrano, ti fanno l'elettrocardiogramma on the fly e quindi a qualcuno potrebbero essere utili queste informazioni. Ecco, quando mi compro uno smartwatch vorrei che il portale al quale lo collego fosse un portale garantito e sicuro, come noti i nomi che sono sul mercato, e vorrei anche che la mia password fosse una password sicura, ci devo perdere un po' di tempo, devo ricordarmela, e possibilmente deve essere diversa da quella che utilizzo in Facebook e da quella che utilizzo in Instagram e in altri portali, perché una volta scoperta una le provano tutte per poter entrare. E se c'è una doppia autenticazione tanto meglio e soprattutto renderà anche il mio profilo non pubblico, darlo solamente, cioè renderlo visibile solamente alle persone che conosco o che fanno parte della mia squadra, perché ci vuole veramente poco per capire le abitudini di una persona. Sì, tra l'altro a proposito di grandi portali e grandi vendor di strumentazioni e software per gli sportivi, veniamo da un'estate che è stata caratterizzata dal caso Garmin, che è stata vittima, questa grande società blasonatissima tra gli sportivi, è stata vittima di ransomware. Sembra incredibile, ma pare che abbiano dovuto pagare un riscatto, cosa che tra l'altro voi esperti di cyber security sconsigliate sempre. Sì, sconsigliamo sempre per una serie di ragioni, perché la prima è che il più delle volte non ti restituiscono i tuoi dati. Quindi il consiglio è sempre fate i backup. Alla fine, quando dobbiamo dare dei consigli, sono sempre i soliti vecchi consigli che si davano nel 95. Sono gli stessi, perché il mondo non è cambiato da questo punto di vista. Il fatto di essere il ransomware è un attacco molto efficace e molto remunerativo, perché il più delle volte le aziende pagano purtroppo, perché si ritrovano tutti i loro dati compromessi e criptati, per cui non hanno più l'accesso ai loro sistemi, se non per vedere la spiegazione su come pagare e chi pagare. E se non ho dei sistemi di backup fatti bene e soprattutto se non li ho mai testati, rischio di non riuscire più a recuperare nulla. Per cui un'azienda come quella che hai citato, la Garmin, che ha miliardi di dati dei propri utenti, registrazioni, storici, percorsi, tragitti. Insomma, lei, peraltro, la Garmin lavora su molti livelli, non solamente lo sport, ma anche l'aeronautica e quant'altro. Si ritrova veramente in braghe di tela se non riesce a recuperare i propri dati. È assurdo che sia successo, ma può succedere. Bisogna capire come e perché, perché potrebbe anche essere una persona che lavorando da casa è stata compromessa all'interno del suo network di casa, grazie a tutte quelle cose di cui abbiamo già parlato all'inizio della trasmissione. Il ransomware, peraltro, adesso è anche evoluto, abbiamo scoperto, vediamo dei trend di crescita che mentre prima ti facevano la crittografia dei propri dati e ti chiedevano il riscatto, adesso ne rubano una parte e li mettono pronti a essere pubblicati su un sito pubblico. Per cui non solo rischi di non riottenere più dei dati, ma se hai dei dati sensibili, rischi che ci sia l'accesso da parte di tutti, che vengano pubblicati se non paghi il riscatto. Quindi è molto facile monetizzare per i criminali informatici quando si tratta di ransomware. E questa è la chiave del successo dei ransomware, per capirci. Ed è effettivamente un problema che rimane un grande problema. Grazie a David Gubiani per essere stato con noi. A presto, buon lavoro. Grazie. Abbiamo parlato di smart home, abbiamo accennato ad alcuni aspetti della smart home. Adesso vorrei raccontarvi quello che è successo ad un nostro ascoltatore. Simone Bruno, benvenuto a 2024. Grazie. Tu sei in Colombia per lavoro, perché lavori per Franz von Katter, giusto? Sì, esatto, per il service in inglese. E poi sono freelance per altri media, tendenzialmente sempre in lingua inglese. Sì, ricordiamo che Franz von Katter è la TV, il canale televisivo all news francese che esiste sia in lingua francese che in lingua inglese. Tu sei, mi permetto di dire, abbastanza abile con il concetto di smart home, perché negli ultimi anni hai creato tutta una serie di situazioni, hai collegato molti oggetti nella tua casa. Raccontaci un po' quello che hai fatto negli ultimi anni. Sì, diciamo, negli ultimi anni ho cominciato a comprare una serie di apparati smart per la casa, fra l'altro anche ascoltando appunto il tuo programma, e quindi ho cominciato con delle cose semplici, tipo delle telecamere, una telecamera Ring all'ingresso che funziona un po' come un citofono intelligente all'entrata, diciamo, del giardino. Qua abbiamo una casa, una casetta con il giardino, quindi ho messo il Ring lì. Poi, sempre per sicurezza, ho preso delle altre telecamere. E ovviamente, anche se tutti i produttori adesso cercano di fare quasi tutti i prodotti, alcuni li fanno meglio degli altri, quindi è difficile rimanere fedeli ad un solo prodotto. Quindi, per esempio, la telecamera del citofono è il Ring, ma le altre telecamere che ho preso come telecamere di sicurezza sono delle Arlo, specialmente perché gli ultimi modelli sono 4K, quindi ti permettono di fare zoom senza perdere troppa qualità quando c'è un'allerta, eccetera. Ho poi messo un August, che è un lucchetto intelligente, una serratura intelligente all'entrata, e per aprire il cancello e quindi entrare nel garage, un altro apparato che è meno comune, che si chiama GoGo Gate 2. E poi poi abbiamo messo a casa degli altoparlanti Sonos. Questo ricordo che fu proprio una puntata di France 24 a suggerirmi questi multiroom dei quali non conoscevo proprio l'esistenza. E l'illuminazione è ormai quasi al 90% fatta tutta da lampadine Philips Hue. E quindi, mentre andavo avanti installando le varie cose, un po' giocando, no? Perché alla fine cercare di fare una smart home è ancora un gioco, una passione. Ho una sfida anche. Ho una sfida, certo. E a un certo punto ti accorgi che hai, non so, 7, 8, 10 applicazioni differenti, ognuna per controllare un singolo apparato, ognuna delle quali ti manda delle notificazioni con una certa frequenza, e tu cominci a dire: ok, ma come faccio a far parlare, a far comunicare tutte queste cose fra di loro? Che comincia ad essere in qualche modo una necessità per perché le cose diventino funzionali. Certo, per non avere un'applicazione per ogni utilizzo, quindi un'applicazione per il cancello, un'applicazione per le videocamere, un'applicazione per le luci, fondamentalmente per questo, o comunque non solo per questo. Sì, però questa è una delle ragioni principali, perché tu hai tantissime applicazioni, quindi un po' ti devi ricordare, ok, io poi mi ricordo, ma magari mia moglie invece che dice, vabbè, facciamolo giocare con le sue cose, poi però si trova dentro una casa dove non c'è più l'interruttore della luce, quindi lei deve accendere la luce in qualche modo e quindi ha bisogno di un'applicazione, e poi un'applicazione magari per vedere le telecamere, un'applicazione per aprire la porta nel caso che arrivi qualcuno, sai, i lucchetti intelligenti tu li puoi operare da fuori, da lontano, quindi puoi, certo, accendere il citofono intelligente, vedere chi c'è alla porta e dici, mi ero scordato che veniva tal persona, e da lontano, da remoto, le apri. Sì. Quindi ti si comincia a riempire il telefono di queste applicazioni nuove e ognuna fa funzionare un singolo apparato della casa. Ecco, a questo punto tu che tipo di soluzione hai trovato per mettere assieme tutte queste varie applicazioni, tutti questi sistemi, questi servizi, chiamiamoli così, all'interno della casa? Dunque, all'inizio, dopo aver cercato un po' online che cosa c'era sul mercato, ho scelto un sistema che si chiama SmartThings, che poi è stato comprato da Samsung, che è un sistema di allarme, quindi mi ha permesso di introdurre nella casa anche dei sensori molto economici con delle batterie che durano per moltissimo tempo e che vengono collegati con SmartThings, che però ti permette anche di integrare in una forma che ovviamente è ancora un po' lontana dalle esperienze user-friendly alle quali siamo abituati negli ultimi anni attraverso cellulari e pad. Comunque permette di integrare tutte le varie applicazioni che hanno a che fare con la casa intelligente. E in più permette di generare delle routine e ha un sistema, un linguaggio di programmazione interno, là poi diventa completamente una cosa da smanettoni, che ti permette di creare una sorta di allerta, cioè succede qualcosa nella casa e la casa risponde, non so, accendendo le luci, per esempio, oppure accendendo una telecamera, eccetera. La cosa funzionava abbastanza bene, però appunto era molto poco user friendly, forse meno ancora di utilizzare tutte le applicazioni, tant'è che io, che faccio sempre gli esperimenti con mia moglie, l'ho installata sul suo cellulare e credo non l'abbia mai usata. Quindi a questo punto tu eri alla ricerca di qualcosa di più facile. Esatto, sì, a un certo punto sono cominciati ad arrivare tutti questi smart speaker, questi altoparlanti intelligenti, soprattutto quelli di Alexa, che hanno il vantaggio di essere molto economici, quindi diciamo l'investimento per provarli non è altissimo. Ovviamente hanno tutte le funzioni che sono più conosciute, quelle di chiedere delle cose, ti risponde, oppure dice delle barzellette, o ti fa ascoltare le notizie, eccetera. Però funzionano anche molto bene, o piuttosto bene, diciamo, con tutti gli apparati della casa intelligente. Quindi nel momento in cui è entrato il primo speaker Alexa dentro casa, mia moglie ha cominciato a dire, ah vabbè, allora queste cose funzionano più o meno, quindi posso dire accendi la luce in cucina, e la luce si accende. Nel tempo uno può creare delle routine, quindi dire Alexa buonanotte, E cosa succede? Si spengono magari le luci, rimangono accese solo alcune luci, c'è un controllo sulla serratura intelligente che si chiude, c'è un controllo sul garage per vedere se è chiuso anche il garage, si spegne la televisione, ma insomma, poi lì è la fantasia, uno può mettere una musica per dormire, eccetera. Sì, beh, diciamo che tutti gli strumenti che tu hai collegato nella tua casa devono essere compatibili con Alexa. Sì, però la compatibilità è veramente molto alta. Sì. Per dire, fra i miei apparati, l'unico che non era compatibile direttamente è GoGo Gate, quello che apre il cancello del garage. Però attraverso If This Then That, che è un'applicazione, sì, che permette di integrare ulteriormente in una forma molto intelligente vari apparati con un semplice trigger, diciamo, così si chiamano, funziona perfettamente. Quindi a quel punto dici Alexa, trigger, apri il garage e si apre. Sì, è come una sorta di ponte per applicazioni che non sono compatibili con Alexa, potremmo tradurre in questo modo, diciamo. Sì, esatto. Senti, prima di arrivare al momento clou, perché poi ti è successa una cosa per quello che tu mi hai scritto e io poi ti ho risposto, secondo te ad oggi trasformare la casa o parte degli oggetti che noi abbiamo in casa in modo che siano smart e quindi creare che sia diciamo ad un livello base o comunque molto o anche molto sofisticato una casa intelligente richiede competenze o è effettivamente alla portata di tutti? Sta diventando più semplice, ma non è ancora una cosa alla portata di tutti. Ossia, il singolo oggetto, diciamo le luci, oppure la serratura, oppure le telecamere, usate singolarmente con le loro applicazioni, sono molto semplici e funzionano molto bene, proprio out of the box, colleghi, e funziona. Quando invece tu vuoi cominciare a far parlare le cose fra di loro, quello è complicato, è ancora complicato. C'è un lavoro da fare dietro che penso che ancora adesso l'utente comune non faccia, o comunque sia troppo stressante, diciamo, se possiamo usare questa parola, far sì che le cose parlino fra di loro. Ok, senti, ad un certo punto è successo qualche cosa. Cosa è successo? Dunque, ad un certo punto è successo che decido di fare un acquisto, come ti ho detto io sono in Colombia, decido di fare un acquisto sul mio account Amazon in Italia, che è un account insomma piuttosto vecchio, ecco, viene sì. Dal mio account americano che esiste ancora prima che esistesse Amazon Italia. Questo perché Amazon in Colombia non esiste? No, non esiste ovviamente. Questo è il motivo principale, insomma. Certo, sì, certo. E perché comunque avevo bisogno di mandare una cosa alla mia famiglia in Italia. Ok. Quindi decido di fare un acquisto. È un acquisto un po' più costoso del normale e quindi quando pago, all'inizio dice l'ordine è andato a buon fine e poi mi arriva un'email che dice guarda abbiamo bisogno di verificare che sia realmente tu. E, ok, mi sembra ragionevole. Il mio IP da dove ho fatto l'acquisto, cioè il mio indirizzo internet, ovviamente risulta fuori dall'Italia. L'acquisto ha un certo valore, quindi mi sembra anche giusto e corretto e mi fa sentire sicuro il fatto che Amazon voglia verificare che sia veramente io a fare questo acquisto. Nonostante che la carta di credito sia quella di sempre, l'indirizzo di spedizione anche. Quindi risolvo, mando questi documenti, passano un paio di giorni, provo di nuovo e succede la stessa cosa. A quel punto entro in chat con un assistente che mi dice guarda, prova a cambiare la carta di credito, vediamo che succede. Quindi metto l'altra carta di credito, rifaccio l'acquisto e a questo punto invece di bloccarsi l'ordine si blocca completamente il mio account di Amazon. Tutti gli account di Amazon sono collegati, quindi il mio account in Italia, il mio account negli Stati Uniti si bloccano completamente e quindi da un momento all'altro tu dici Alexa accendi le luci e Alexa ti risponde, mi dispiace, non sono collegata ad internet, apri la tua applicazione e registrami sul tuo account. Dici, che succede? E succede certo, che... perché Alexa è collegato al tuo account Amazon. Esatto. Quindi succede che non funziona più. Quindi io che ho tutte le applicazioni, eccetera, continuo a poter utilizzare la casa, ma mia moglie invece non riesce più a fare nulla, praticamente non riesce più ad accendere le luci, deve installarsi l'applicazione delle luci che non aveva, non riesce più ad aprire il cancello del garage, deve installare l'applicazione, imparare ad usarla, configurarla e così per tutti quanti gli altri apparati della casa, insomma. Quindi da un momento all'altro la mia impressione è stata proprio quella che poi ti ho scritto di essere entrati in un episodio di Black Mirror, ossia fare affidamento su un apparato che non è indispensabile, ma insomma alla fine uno si abitua e ti aiuta nella vita quotidiana e dal momento all'altro senza una ragione si spegne e tu sei fuori e non riesci più a utilizzarlo, non riesci più a interagire con la tua casa come eri abituato. Certo, allora questo episodio seppur raro, immagino insomma che sia una minoranza a cui è accaduto o possa accadere una cosa del genere, però è molto interessante perché ci insegna alcune cose. Ricordiamo che tu lo hai specificato, ma lo ribadiamo, potevi comunque con le singole applicazioni accedere ai vari oggetti della casa, quindi luci e altro. Però questa forma di integrazione è venuta meno e il blackout è durato circa una settimana. Tu che cosa hai imparato? Che tipo di lezione puoi raccontarci? Impari che non ci si può fidare troppo delle grandi imprese, delle grandi multinazionali che ti offrono dei servizi molto o dei prodotti molto economici, sui quali tu poi fai affidamento sempre di più, però tu dipendi da loro, quindi nel momento in cui qualcosa succede, quindi nel mio caso un acquisto è andato male, che, diciamo, dopo una settimana si è risolto, hanno visto che non c'era nessun errore, hanno riattivato l'account, eccetera. Però per una ragione esterna, diciamo, da te, la tua casa smette di funzionare. E quindi tu che cosa impari? Impari che questo che sembra semplice, questa forma di integrare tutti gli apparati che sembra semplice, in realtà ha un costo, e il costo è che tu non controlli più la tua casa. Quindi impari che devi cercare qualche strumento che è ovviamente ancora più da smanettone, però che ti permette di avere la gestione centralizzata della casa nelle tue mani, dentro la casa stessa. E ovviamente questo allontana ancora di più quella esperienza user friendly che ci piacerebbe avere per unire tutti quanti questi vari prodotti di differenti marche che uno mette dentro casa, e che, diciamo, non sono indispensabili, ma sono divertenti, sono utili e ti semplificano la vita in qualche modo. Simone, grazie per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro, a presto. Grazie a te, a presto. Allora, quello che ci insegna questa storia è che potete tranquillamente continuare ad utilizzare Alexa, Google Home, Apple HomeKit nelle vostre case, ma non affidate loro il controllo di tutto. Un sistema di smart home si deve basare possibilmente su una centralina locale che funziona indipendentemente da internet. L'abbiamo detto altre volte, ma forse non con una chiarezza, con la opportuna chiarezza. Ci sono soluzioni commerciali, come ad esempio la prima che mi viene in mente è Fibaro, azienda polacca acquistata recentemente da un'azienda italiana, oppure soluzioni basate su open source come Raspberry Pi e software aperti come Domotic Z o OpenHub, che consentono di operare in autonomia garantendo al contempo l'accesso alle funzionalità di Alexa, Google Home e Apple HomeKit. Ma, come dicevo, questi sistemi devono essere un arricchimento delle funzionalità di domotica, ma non gestire nulla di critico. E così abbiamo concluso questa puntata di 2024, la nostra prima puntata della nuova stagione. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Per questa settimana è tutto, ci risentiamo nella prossima puntata. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.